se ci ascolterà o meno, potrebbe venire anche a mandolinare qui insieme, certo, a voi due, oppure mandolinare da lì e mandarci un WhatsApp. Ukulellare, in realtà. È vero. Come la vogliamo svelare l'ospite? Ecco, si sta già svelando con qualche accordo. Ecco, sì, poi magari posso potrebbe farci... dirlo o non devo dirlo? Diciamo prima qual è il tema della trasmissione. Sì, diciamo prima qual è il tema. Quest'oggi la puntata, la 117esima puntata di Coxo Spaziale è dedicata a The Dark Side of the Music, uno spettacolo format che ha già debuttato questo mese, era il mese scorso, e la prossima data sarà l'11 dicembre al Teatro del Navile di Bologna. E qui c'è un ospite, c'è l'ospite che, oltre a essere ospite oggi qui al Coxo, è anche ospite di questo format. E giustamente tu dici ospite, sì, perché in realtà c'è una conduttrice che ospita gli altri partecipanti allo spettacolo programma. Certo, io ospito sempre, sono molto ospitale evidentemente. Comunque, quindi è qui con noi la famosissima blogger Silvia, ma il suo vero nome è Silvia Salerno. Esatto, ecco. Esatto. Buonasera a tutti. Scuppone. Silvia, io so già chi sei tu, forse Fedra lo sa un po' meno. Beh, potremmo fare un ripassino anche a favore di chi ci ascolta. Quale Silvia? Volete sapere chi è Silvia, chi è Silvia? Vogliamo sapere prima chi è la Silvia blogger nello spettacolo o chi è la Silvia fuori dallo Oppure spettacolo? Oppure facciamo tipo un viaggio. Un calambuco. Silvia che poi diventa Silvia. Io partirei prima dalla maschera, così poi la togliamo, no? Esatto, sì. Partiamo dalla maschera. Allora, perfetto. Chi è Silvia in The Dark Side of the Music, uno spettacolo di e con Roberta Giallo, Marco Sbarbati, Paolo Piermattei e sì, la Silvia. La Silvia è quest'ospite particolare perché è un ospite un po', diciamo, è l'unico ospite di quel genere nello spettacolo, perché si differenzia appunto dagli altri cantautori essendo una blogger, come è stato detto. Anzi, se vogliamo essere più precisi, è una YouTuber. Quindi, ho sempre voluto avere una YouTuber in trasmissione. Vedi, te l'ho portata. Sì. Ce l'hai davanti. Grazie, Silvia. Le YouTuber poi alla fine esistono. Poi a una certa devi dire sto ascoltando Coxo Spaziale, così io tolgo la clip e faccio una... Quando vuoi. Okay. Dico tutto quello. Magari anche vuoi. Con l'accordino di ukulele. Sto ascoltando Coxo Spaziale. Quindi è una YouTuber, quindi che fa questi video dal suo divano. E nel suo salotto con il suo ukulele, che questa sera in realtà mi è stato gentilmente concesso da Roberta, quindi questo è il suo ukulele, l'ho prestato perché lei veniva insomma da lavoro, non l'aveva con sé, ha detto te lo porto io. Infatti il mio è un ukulele nero, perché è un colore che mi piace particolarmente, si chiama Fobby, ha un nome e lo presento anche spesso nei miei video. Quindi io faccio questi video dal mio divano e ho tantissime visualizzazioni, tantissima gente che da casa mi segue. Sì, ma questa qui è la Silvia. È la Silvia di The Dark Side of the Music. Ok, quindi se io ti chiedo, ti dico che da domani questo link YouTube del canale sarà visibile su www.coxospaziale.blogspot.com, non è vero. Dico una coxata. No, allora che su Coxo è giù, è vero, no? Perché sono confusa. Mi fai peggio che Pasquini, Roberta. No, allora, ragazzi, allora rifacciamo il punto della situazione perché ci stiamo smarrendo. Allora, lei si chiama Silvia Salerno nella vita di tutti i giorni, nella sua quotidianità. Ciao, io Silvia. Stasera, ciao. Cieco, mi ripresento. La porto prima come Silvia, ovvero la blogger più famosa che c'è, che sta intasando tutti i social network, la grande Silvia col suo ukulele Fobby che fa le cover di cantanti internazionali. Ok. Esatto. Poi dopo sapremo che invece Silvia Salerno fuori dallo spettacolo The Dark Side. Ah, sì. Quindi The Dark Side of Music è uno spettacolo. Sì. Sì, uno spettacolo format teatrale che nasce per voler creare del disincanto ironico. Di cui io forse adesso potrei anche farvi sentire la sigla, perché c'è una sigla, vero? Fuliggine. La facciamo? Sì, facciamola. Fanno i complimenti e ti danno consigli finti, c'è chi spera che ti sbagli. Uè, tanto prima o poi ti spogli. gente, ma non troppo, e la scemenza che fa colpo. Ci serve un pezzo bello fresco, non puoi essere depresso. Fuligine, questo è solo fuligine. Ah, fuligine, resta solo fuligine. Ah, datti una motivazione per la tua emancipazione. Fatti fare un tatuaggio. Scarrafone o scarrafaggio. Metti pure il parrucchino. Ci vuole un look più sbarazzino. Delicato ma non troppo. Né sfigato né finocchio. Occhio. Fuligine, questa è solo. Io so quello che ci vuole, io maneggio le pistole. Bang, bang, bang, bang, bang. Questa è la sua strategia, mi ha portato a casa sua, ha tirato fuori l'arma. Metti qui una bella firma. Fuligine, questa è solo. Mi labiale, io non sono un cantautore, io posso farti male perché non so cantare. Ehi, ci vuole un po' di graffio, mi sembra un epitafio. Sai che fa successo solo quello che fa schifo. Schifo. E allora io ti faccio il tifo, ma tu fammi schifo. Fuligine, questa è solo fuligine. Fammi schifo. Ah, ah, ah. Fuligine, questa è solo fuligine. Schifo, schifo. Fuligine. Questa è solo fuligine. Scusate ragazzi, mi sono intromessa nel pezzo perché no. Ma sei la benvenuta, Robiello. Ciao fratello, ciao da Robiello. Che è un altro elemento. Ma qua davanti c'ho la Pilvia, cazzo, la blogger più famosa d'Italia del momento. Vedi che anche lei ti conosce, anche lei c'era rimasta, ci aveva creduto, insomma. Ma adesso lei canta o c'è Marco? È perché abbiamo in collegamento telefonico Marco. Marco Sbarbati. Ci sei? Pronto? Sì, sì, ciao, benvenuto a Coxo Spaziale. Ciao Marco, ti ricordi di me? Sono Robby Yellow. Come posso dimenticarti, Robby? È di me Marco, ti ricordi dai miei video su YouTube? Ma c'è pure Silvia? C'è la Pilvia, blogger. La Silvia, ha scelta Pilvia o Silvia Salerno. E c'è anche Roberta Giallo. E ci sono anch'io. Sono c'è varie personalità. Pasquini non c'è. No, Pasquini non c'è, ci dispiace molto, lo salutiamo. Però forse Marco ci può aiutare a decifrare questo arcano. Esatto. Ma sto The Dark Side of Music, che cos'è? C'ha una sigla, c'ha una presentatrice, c'ha degli ospiti che però sono anche dei concorrenti. C'ha... Che cos'è Marco? Dillo con parole tue, Marco. Ma è un, diciamo un posto di matti in realtà, essenzialmente, però... Ah, ecco perché... Cioè, è nato come uno sfogo alle nostre pazzie, secondo me. No, a parte gli scherzi, The Dark Side of the Music, già il titolo un po' no, ricorda... ci dice qualcosa comunque della musica, ecco. E l'idea è nata perché comunque io e Roberta Giallo e Paolo Piermattei pensavamo di praticamente raccontare un po' il dietro le quinte del mondo della musica, no? Torbido, torbido. Brava, torbido, oscuro. Sì, perché comunque io e Roby e altri ragazzi, altri cantautori, cantanti che abbiamo conosciuto, comunque abbiamo avuto l'opportunità di parlare e di conoscere, no, un po' questi personaggi, tutte queste figure strane, oppure di raccontare una realtà storie. Che però non mi tocca. E quindi lo scopo, cioè la nostra idea era quella proprio di raccontare questo mondo qua. Cioè, abbiamo riscontrato che c'erano, come dire, dei punti di contatto tra le nostre esperienze. Cioè, anche se esatto, diverse, simili per questo aspetto dark. Che io credo siano anche benissimo riassunti nella sigla, nell'atmosfera della sigla. Di Fuligine. Che abbiamo appena ascoltato, che sì, a me è piaciuta esatto, tantissimo. Fuligine. Ma penso che sia perfetta per questo tipo di spettacolo. Ma tu Marco adesso che cosa stai facendo di bello? Sai che Marco è uscito da X Factor, ha un pelo da entrare nella trasmissione, perché tutti Marco mi chiedono di te e mi dicono: ma Marco allora che dice, che racconta, cosa vuoi dire a queste persone che ma anche può parlarne? Per strada... Ma può parlarne adesso? Perché sai quelle trasmissioni lì sono tutte quante strane, che ti mettono in prigione se dici una mezza. No, l'hanno già picchiato. Ah, ok, allora siamo a posto. No, posso parlarne adesso da persona che l'ha vissuto, quindi dall'interno, no? Nel senso, prima magari parlarne sarebbe stato difficile e presuntuoso, invece ora che ci sono passato dentro, comunque... Sì, no, è un'esperienza che comunque rifarei, però che non raccomanderei a qualcuno che non ha le idee abbastanza chiare, che non conosca bene, no, com'è questo mondo, anche questa musica. Anche se in realtà quella lì, diciamo che oggi come oggi in Italia si pone come, diciamo, l'ingresso al mondo della musica mainstream, più evidente, no? Sì, beh, sembra che sia... il talent ormai sembra che sia proprio, no, una tappa un po' per tutti, anche chi magari 10 anni fa non l'avrebbe mai fatto, avrebbe oggi, voluto evitarlo. Sì, oggi sembra diventata un po' una strada percorribile anche da chi non si sente proprio un appartenente di quel mondo, ecco. Però ma bisogna avere le spalle forti, fare la cosa. No, vabbè, bisogna avere tanta fortuna comunque, a parte poi la bravura e tutto il resto, perché comunque le logiche che ci sono, cioè non è che se uno è bravo, si sbatte, aggrinta tutto, poi cercano delle cose che andrà avanti. Ma no? Vogliamo fare una cosa propizia, un esperimento tipo un po' mistico per portarci fortuna qua in questo momento? Vogliamo ripetere una parola che magari ci porta fortuna a tutti? Quale? Che ne so. Pensavo avessi la parola. Inventiamoci una abracadabra, una parola W. Simbolo, che significa che ci arriveranno tanti soldi, tanta gloria, tanta fama, tanta salute. Vogliamo farlo, di dirlo tutti insieme? Inventiamoci un mantra, lo ripetiamo? Sì, volentieri, su questo caso, vai ora in onda, su Radio Città Fujiko 103.1, il mantra per ognuno per dica, il successo. Dica una sillaba, parte Marco, poi io, Silvia e te, poi la diciamo. Marco, di una sillaba. Re, io dico, lui, re, io mi, re, mi. Sci. Remi sci? W. Remi sci W. Allora, diciamolo per 5 volte, Remi sci W. È un momento di radiofonia molto elevato, devo dire. Ti ringrazio, Pasquini, diciamolo, veramente ragazzi, non ci arriverebbe mai. Diciamolo. Diciamolo, dai. Remi sci W. Remi sci W. Marco, anche di uno da capo, lui non l'ha detto. Che cavolo, è da capo. 1, 2, 3. Remi sci W. Remi sci W. Remi sci W. Remi sci W. Remisci W! Ecco, adesso verranno a noi soldi e fortuna. A Marco comunque, no, ragazzi, perché non l'ha detto. Perché io sono quella che fa i soldi però qua in mezzo a sto gruppo. Quindi in realtà la Pivia, la sono un attimo... Cioè, mi sono inserita nel mantra, ma in realtà sono quella che va... Cioè, io non mi quindi posso forse lamentare. I soldi da te passeranno a noi. La Pivia come blogger Vediamo, infatti avevo in progetto di dare del lavoro a sti ragazzi. Capisci? Di ingaggiarci. Ecco perché qua. Tu sei qui in questo momento del Remisci W. Esatto. Marco, ma ci vuoi comunicare qualcosa che vuoi dire a tutti noi di Radio Fujiko? In questo momento? No, sì, vorrei... No, nel senso... In che senso? No! Non lo so, dei numeri per il lotto. Che ti sei trasferita a Milano, come ti sembra la realtà musicale di Milano? O è troppo presto per poter... È troppo presto per poter parlare di Milano, però mi piacerebbe iniziare a suonare qui. Oh, facciamo questo appello, insomma, voi che qui a Bologna ci ascoltate e avete amici a Milano esatto, chiamate Marco Sbarbati, chiamate gli amici di Milano che chiamino esatto, Marco Sbarbati perché inizia a suonare a Milano. Ok, tra l'altro io ho degli amici lì che hanno già intrapreso questo percorso da un decennietto, quindi magari vi metto in contatto e quando venite qua a Bologna venite tutti e due in trasmissione. Marco, comunque... E loro cosa dicono? loro cosa dicono, come vivono lì a Milano? Guarda, te lo dico poi quando viene in trasmissione. Ma forse sai, non che scopriamo i segreti. La parola che si poteva leggere il labiale, perché era qui, forse era quella che, vabbè, Coxo? No, niente. No, comunque, Marco, ora, sì, noi sappiamo che tu, uscito da questi percorsi paratelevisivi, ne avrai un sacco di novità per arricchire questo real show che è The Dark Side of Music, che fra l'altro torna a Bologna prossimamente. L'11 dicembre. Con anche la Pilvia? Certo. Sì. Con anche siete tutti invitati, ci saranno nuovi ospiti, poi la prossima, perché ogni volta sono ospiti diversi, non so adesso se Roberta ne ha parlato, sì, infatti diciamolo, però ci saranno ospiti cantautori ogni volta diversi che ci racconteranno la loro esperienza. Ma è un super format, sì, un po' come Coxo Spaziale, che c'è il co-conduttore mensile. Esatto, che meraviglia. Il prossimo ospite sarà Mister Albo, un cantautore della zona dell'Inter milanese. Anche lui ha fatto X Factor, tra l'altro. Marco l'ha conosciuta X Factor, credo. Ah. Sì, io l'ho conosciuto lì. È meraviglioso tutto ciò. Ci sono gli occhi di Pilvia, che sono proprio. Tanto lei ormai, no? Guarda dall'alto, si è creata il suo percorso. Ormai sì. Ma invece io ce l'ho un'altra novità su Marco. Sì. Che fra l'altro è un brano che quindi lo potremmo ascoltare. Sì. Di che brano si tratta, Marco? Ce lo vuoi dire? Si chiama Mister Tutto Più Facile. Ed è un brano che è il primo brano in italiano che ho scritto a Bologna, tra l'altro. Ed è un brano che parla dei Mister Tutto Più Facile, sono dei personaggi che uno incontra lungo la propria strada che promettono cose che poi in realtà non. Rimaniamo sempre nel torbido. No. Sì, perché questo è un brano che tra l'altro io usiamo nello spettacolo. Esatto. Sì. E quindi niente, il brano si chiama Mister Tutto Più Facile. Ma poi un attimo, che abbiamo due minutini che avanzano e mi torna in mente. E mi torna in mente che tu nello spettacolo, così come Roberta diciamo si trasforma in sua cugina Robbiello e anche in altre presenze, anche tu conosci direttamente un pubblicitario, giusto? Marco, io conosco un pubblicitario. Chi sei oltre a essere Marco? Che non è neppure italiano. Io conosco Ben Spitzler. È il pubblicitario più famoso di tutta l'Austria. Ma ce lo vuoi far sentire un attimo? Visto che abbiamo questo minutino di disavanzo rispetto alla nostra scaletta, non lo so se vuoi cogliere l'occasione per cedere. Sì. Un attimo, vedo se arriva. Bravo, ecco. Che poi in Svizzera sono veloci. Oh, salve! Oh, salve! Dottor Spitzler. Ben Spitzler. Spitzler. Spitzler. È un piacere averla qui in diretta. Perché Roberta a volte sbaglia pronunciata questa parola. Mi scuso, è vero, perché è difficile. Spitzler. Spitzler. Ma che cosa presenterai nella prossima puntata? È un gadget nuovo? Marco? Sì, Marco Spitzler. Ma è un segreto, non si può dire. Un segreto. Ma allora cosa è venuto a fare? A salutarci? Perché anche lui è molto dark, The Dark Side of the Music, anche Sweet. È perfettamente in tema. Bisogna venire al teatro per scoprire l'oggetto. Si sa già anche che teatro è? Il teatro del Navile di Bologna, di via Marescalchi, non si può sbagliare. Però purtroppo il dottor Spitzler sarà in collegamento televisivo. Sì, solo televisivo lui. Comunque la ringrazio. Sì, è velocissimo lo svizzero. Ci ripassa Marco per favore, così lo salutiamo. Pronto, eccomi. Sono tornato un attimo. Marco, grazie tantissimo per aver reso questa 117esima puntata di Coxo speziale. È perché Spitzler fa Spitzler, esatto. Ancora più eccelsa. E sentiamo grazie un pochino di questi Mister Tutto è Più Facile. Sì. Ok. Va bene. Buon ascolto, grazie a tutti. Ci vediamo al Teatro del Navile l'11 dicembre. Grande Marco, okay. Bravo per averlo ricordato. Va bene. Ciao, bacioni. Ciao. Ciao. presenta da te. Mister, tutto è più facile, vuol convincerti, sai, mentre affoghi nei guai, che un salvagente c'è, tutto tornerà stabile, ma la stabilità a te divora l'anima. Mi hanno detto che lui ti solleverà e poi con promesse accettare dovrai, te ne pentirai. E con un pretesto lo chiede di poter entrare, futili momenti regalerà invitandoti a ballare, inebriante senso di verità e la voglia di restare. Come un'altalena salirai per poi giù. Tutto è più facile, vuol convincerti, sai, che non ci riuscirai. E con un pretesto lui chiede di poter entrare, futili momenti regalerà invitandoti a ballare, di verità e la voglia di restare. Come un'altalena salirai per poi giù ricadere. Sempre come entrare, inebriante senso di verità e la voglia di restare. Come un'altalena salirai per poi giù ricadere. I due minuti di Lonely hanno una durata percepita variabile. The words would make you out and out. spend the day your way. Children really ring. I'll spend the day your way. Calling morning, driving through the sun and needing out the valley. In and around the lake, mountains come out of the sky and they stand there. One mile over will be there, we'll see you. Ten true summers will be there laughing too. 24 before my love, you see, I'll be there with you. Già finito? Ragazzi, ho dato il mio migliore esame e ora mi merito un panzerotto alla focacceria mediterranea. Perché non prendiamo il buffet della festa? Per compleanni, lauree e anniversari, la focacceria mediterranea propone il menù a buffet con due enormi teglie di pizza e una di sfoglia o una ripiena, anche in versione buffet bio. Ma lo sai che adesso fanno gli impasti di qualità superiore con farine bio macinate a pietra? Con la gamma d'altri tempi, gli impasti si laureano ad esaltare al massimo il gusto con le farine ai multicereali e ad aiutare il sistema immunitario con le farine alla canapa. La focacceria mediterranea è in strada Maggiore 96 e sul sito www.focacceriamediterranea.it. La focacceria mediterranea, la buona e sana cucina tradizionale, come quella d'altri tempi. Nel buio delle notti si accende il carosello disco Lap Dance. Venerdì 13 novembre arriva la Venere polacca, Amanda Fox. Venerdì 13 novembre, live show con Amanda Fox. Presentazione in anteprima del suo nuovo calendario 2016. Info, prenotazione tavoli 051 570 500, www.carosellodisco.it. Carosello Disco Love Dance, Casalecchio di Reno, Bologna, via Bazzanese 95 terzo. Mese della prevenzione cardiovascolare, sono Andrea Mingardi. Il cuore è fondamentale, se lo so blu potrebbe essere anche in sofferenza. Un avviso a tutti i naviganti e a tutti i bolognesi: ascoltate Radio Città Fusico, che vi dirà come fare una visita gratuita alla ionoforettica e aiutare questo cuore a rimanere in Serie A. Ciao a tutti e sempre forza Bologna. A novembre ascolta Radio Città Fusico dalle 8 alle 9.30, dal lunedì al venerdì. Potrai aggiudicarti un buono per una visita cardiologica gratuita presso Ionoforetica in via Lemonia 47C a Bologna. Che profumo di pane! Tutta via del fratello ne è inondata. Ma da dove viene? Da un forno storico di Bologna. Pane fresco fatto a mano, prodotti tipici bolognesi, pasta fresca, biscotteria artigianale, pasticceria, e tutti i loro prodotti li fanno anche in versione vegan. Tre libatezze per tutti i gusti. La qualità di un forno storico e la genuinità vegana. Io entro. Profumo di pane in via del fratello 18, telefono 051 234209 e sulla pagina Facebook. Profumo di pane, tre libatezze per tutti i gusti, anche vegan. Ritorniamo in vacanza? I 7 lì di Ferraresi già mi mancano. Mi scende la lacrimuccia. Ferma lì, rifacciamoci gli occhi sul sito www.lecasedelmare.it. Me l'hanno suggerito i nostri vicini di Ombrellone. Loro non rinunciano alle vacanze lì di Ferraresi e si sono comprati una casa grazie all'agenzia Le Case del Mare. Il momento è propizio per l'acquisto di immobili. Sarebbe un buon investimento. È un buon investimento, perché quando non andiamo noi possiamo affittarlo. Contattiamo l'agenzia Le Case del Mare presso il Lido degli Estensi in viale dei Castagni 1 al numero 0533 324 329 o sul sito www.casedelmare.it. Sai che in questo periodo ho una gran voglia di sport? Ah sì? Conosco un posto che lo sport lo fa davvero vivere. Si chiama Decathlon. Possiamo trovarci le attrezzature per tantissimi sport al prezzo più basso del mercato. Allora andiamo subito da Decathlon. Con la varietà di prodotti che offre possiamo iniziare uno sport diverso tutte le settimane. Non ci resta che correre. Decathlon, stiamo arrivando. Decathlon Bologna è in via Tito Carnacini al parco Merville, uscita 9. Decathlon, lo sport è per tutti. Lo sport è di tutti. quante lingue sai dire? Sono felice. Al Centro Internazionale di Lingue Felsineo ripartono i corsi di lingua inglese, tedesco, spagnolo e russo. CILF offre l'eccellenza nella consulenza linguistica per tutti i livelli in un ambiente dinamico, giovane e stimolante. Corsi di ripetizione di inglese e spagnolo per bambini e corsi aziendali individuali o di gruppo. In via San Felice 26, telefono 051 199 84026. Email info@corsilinguebologna.it. Centro Internazionale di Lingue Felsineo, il tuo trampolino verso il mondo. Ehi, dammi un po' un consiglio. Volevo invitare a cena una tipa molto carina in un posto giusto. Hai qualche idea? Veramente ne ho due. Se vuoi fare una cenetta a base di carne cucinata divinamente, portala a Red Brick. Il posto è caldo e accogliente. Hanno birre artigianali e anche un ricco menù veg. Già mi piace. Oppure? Oppure sorprendila e portala a fare un brunch. La domenica dalle 11 del mattino, pancake con sciroppo d'acero, vellutate, uova con bacon, una colazione unica. Ottima idea. E dove? Sempre a Red Brick, in via Frassinago 2C, telefono 051 580950. E tutta la settimana sono aperti anche per pranzo. Allora faccio così, stasera la porto a Red Brick e domattina pure. Cox spaziale. E chi c'è a Cox spaziale? Al 117esimo Cox spaziale c'è la co-conduttrice Roberta W. Giallo, c'è Pilvia, ma c'è anche un'altra persona che ci parlerà di un evento tutto bolognese che avrà luogo la prossima settimana e si concluderà con una performance e coinvolge una realtà pluriennale, la scuola di musica popolare Ivan Illich, niente poco di meno che, ed un posto che deve ancora aprire. Ma dai! Il MAMA. E ce ne parla Katia, che è una delle organizzatrici, nonché partecipante del gruppo Cibo, Contact Bologna, di cui i Cox ascoltatori forse hanno già sentito parlare, si ricordano, spero di sì, perché è una bella realtà. Katia! Ciao! Grazie mille di questo invito, sono infatti molto contenta di raccontarvi un po' di questo workshop che si farà tra il 20, 21 e 22 di novembre. È una cosa coorganizzata, come ha detto Fedra, appunto, tra questa scuola di musica, il gruppo di danza e anche il MAMA, e coorganizzato perché infatti secondo me è una cosa che può veramente interessare musicisti, danzatori, adulti, bambini, insomma persone di varie, con varie attitudini e varie età. Ed è questo workshop di sound painting, per il quale arriva dalla Catalogna un artista formato proprio Arnau, ma com'è? Arnau Milla, sì, lui è un sound painter, oltre che essere musicista, flautista e danzatore contact, è proprio lui è un sound painter. Questo sound painting è un linguaggio gestuale in pratica che si usa per l'improvvisazione e la composizione istantanea. È un, diciamo, un sistema di segni, anche parecchi, sono un centinaio di segni col quale il sound painter, insomma, il compositore coordina. Ed infatti di un gruppo di persone. Che infatti ho avuto la fortuna di vedere una sua prova aperta di una cosa che aveva fatto quest'estate, e lui stava dirigendo delle persone che producevano suoni, danza, ed era proprio molto interessante vedere come veniva riempito lo spazio. E anche il fatto che comunque le persone lì non erano né strettamente danzatrici né strettamente musicisti, ma comunque si cimentavano e arrivavano al pubblico con efficacia. Mm-hmm. Sì, sì, infatti questa è anche la cosa interessante di questo workshop, perché diciamo il fatto di usare dei segni per improvvisare è una cosa pratica abbastanza diffusa nella musica sperimentale di ricerca, da Morris a Frank Zappa, a Phil Minton o altri esponenti, diciamo, di questa pratica. La cosa particolare di questo evento di Arnau, insomma, del sound painting, è che è veramente una cosa multidisciplinare che si rivolge a musicisti e danzatori, e entrambi secondo me ne traggono benefici e spasso. E quindi da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete anche i link per correre a raccogliere questo invito e insomma sfruttare questa occasione. Ci voglio mettere anche questo, beccati qua. Ecco, lo stacco, tiè, beccatelo. E quindi Katia, ti ringrazio tanto, magari poi ci risentiremo anche la prossima settimana, così mi dici se è arrivato un po' prima questo Arnau, magari ci facciamo dirigere un po' da lui per il coxo, eh? Fantastico, fantastico. Ok. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao, a presto. Ma ho pensato che doveva intervistarla. Eh? Ben Cosa? Schwitzler doveva intervistarla. guarda, queste connessioni coxiche, bisognerebbe riuscire ad avere un centinaio di telefonini per scrivere ti amo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, scusatemi. Era una citazione da uno dei miei brani preferiti. Adesso cosa succede? Che finalmente capiamo di cosa, come nasce The Dark Side of Music. Chi siete voi? Chi era quello al telefono prima? Che ci dite? Allora parto col dire che io sono sempre Roberta Giallo. Ciao. Sono io sempre, solo senza la W doppia in questo caso. No, è successo che insomma io abito da molto tempo a Bologna. Bologna è una città patria della musica, è l'emblema della musica, dei cantautori, insomma lo era forse più in passato che adesso. Negli ultimi anni cosa notavo? Notavo che c'era una disgregazione dei cantautori, diciamo di questa classe artistica, chiamiamola anche così. E quindi, avendo avuto la fortuna comunque negli anni di gravitare nell'ambiente artistico, ho conosciuto altre persone che avevano il desiderio, probabilmente come me, di unirsi, creare delle cose insieme, cercare di ricreare interessi intorno a un certo tipo di musica, ovvero la musica composta e autocantata, no? Poi il cantautore canta quello che scrive, anche per poi, come dire, rappresentare un'alternativa alla realtà che al momento ha più pubblicità, più interesse, ovvero i reality, senza nulla togliere poi ai reality, a questo tipo di realtà che comunque c'è, esiste, e probabilmente è bene che esista, come esiste tutto quello che c'è. Però volevamo creare un'alternativa e farla a Bologna, ci pareva il caso. Bologna poi insomma è la casa di Lucio Dalla, io e Silvia ad esempio, che adesso chiamo col suo nome insomma di battesimo, quello vero, quello con cui l'hai conosciuta, sì, insomma, e con perché cui... poi lei è una persona seria, insomma, adesso al di là della blogger, anche una bravissima interprete, infatti poi ci delizierà con un pezzo. E no, quindi ho conosciuto ad esempio a casa di Lucio Dalla, in un evento abbastanza particolare commemorativo, lei e anche Marco Sbarbati, che è il cantautore insomma col quale abbiamo cominciato a creare questo contenuto per quest'idea di The Dark Side of the Music. E insieme il a noi, collante di noi tre è stato poi Paolo Piermattei, che è l'altro protagonista, che è stato poi colui che ci ha messo in contatto. Cantautore che è quello che metteva la voce in Fuliggine. Sì, allora Paolo Piermattei è un cantautore, tra l'altro lui conosceva, io l'ho conosciuto attraverso Lucio Dalla, nel senso che lui lavora alla Pressing tuttora. E quindi c'è questo collegamento anche di Lucio. La Pressing è un'etichetta? Scusi, do molte cose per scontato, ma la Pressing Line era ed è tuttora l'etichetta di Lucio Dalla, dell'immortale Lucio Dalla. E quindi diciamo avevo conosciuto Paolo perché conoscevo Lucio Dalla, Paolo conosceva già Marco perché poi lui a suo modo è anche una sorta di talent scout, quindi ci conosceva tutti anche per le nostre virtù canore. Poi ho conosciuto anche meglio Silvia, che a volte aveva partecipato a dei concerti organizzati da Paolo. Sì, come corista di Paolo Piermattei. E anche diciamo il Teatro del Naville è un luogo importante per tutti noi, perché questo teatro è situato proprio tra l'altro all'angolo della casa di Lucio Dalla, nonché sede della Pressing Line. È un teatro, un luogo importante in cui in qualche modo anche lì ci siamo conosciuti, abbiamo portato avanti dei progetti personali, e The Dark Side è invece il progetto collettivo in qualche modo, no? Unirci in modo diciamo autentico e sincero per raccontare che cos'è stato per noi la musica e che cos'è. Farlo in un modo ovviamente un po' ironico, folle. Poi tu hai visto lo spettacolo, potresti trovare qualche aggettivo, non so, per definirlo. Fedra, come lo definiresti? Tu l'hai visto, anche tu puoi dire che cos'è la prima edizione. Io mi sono divertita. Oh. Mi sono divertita. Ed effettivamente sono stata. Io ero convintissima che Silvia fosse Pilvia. Davvero? Infatti ero qui che dicevo: Roberta, ma che bello, mi porta in trasmissione una vlogger. Io ne cerco da tanti tempi. Come si dice, lo Stanislas che è stato talmente forte in Silvia che ormai è sembrata più Pilvia che Silvia. Ho apprezzato molto i contributi. E poi c'è anche questa cosa che adesso, che vi infrasentivo nel fuori onda, viene fuori che, e anche da come ne hai parlato tu adesso, viene fuori che bene o male quello che viene trasmesso è un pezzo della vostra vita. Certo. È proprio la vita che avete fatto qui nell'incontrarvi nella musica viva che c'è e forse che c'era in questa città. Comunque un 50% di noi è in realtà. Esatto. Nel senso, ognuno di noi porta una piccola verità e poi naturalmente è esasperata per creare questa ironia, questo sarcasmo intorno a questo mondo nebuloso che c'è intorno alla musica. La follia anche che sì. Senti, co-conduttrice Giallo, ma sì, da domani su www.caxospaziale.blogspot.com aiuto, mettiamo anche due o tre videetti, link a videetti delle pubblicità. Ah certo, possiamo metterli, ma certo, perché loro ci non sono sanno anche le pubblicità. Il pubblico spieghiamo che cosa sono le pubblicità. Diciamo che durante questo spettacolo che si propone in forma appunto di reality show in qualche modo, ci sono, come ogni insomma televisione, programma che si rispetti, le pubblicità, ma anche le pubblicità le abbiamo fatte noi. Quindi ognuno di noi, non so, ha fatto il venditore di gadget utile agli artisti. Questo era Marco Sbarbati. Marco Sbarbati, io ho fatto in svizzero. Sì, io ho fatto austriaco. Austriaco, mannaggia. Io ho fatto la maga Caterima che in qualche modo vende a degli sfortunati canzoni a carissimo prezzo. Sembravi uscita da un film o di Lynch o di sì, Tim Burton. Sembravi la moglie di Tim Burton, quella bellissima attrice. Vabbè. Sì, chi parla? 10.000 euro a canzone, prego. A parola. A parola, addirittura a parola a un certo punto. Infatti è ricchissima. Solo per gli amici di... Ma si vede che è ricchissima. E poi c'è Paolo che invece in questo caso credo che cambierà personaggio perché lo vedo piuttosto imbarazzato da se stesso. Paolo Piermattei ha fatto il rapper, insomma, che in qualche modo pubblicizza il mondo rap, che è un locale di Milano fighissimo, come dice lui. E portate il cane. Portate il cane, cioè che pubblicizza questo locale in cui si entra solo con il cane. Esatto. E poi c'è la mia adorata, che io sono fan dal primo momento che l'ho visto, Robby Yello. Ciao Fedra. Ciao, oh, ci qua. Sei di ci nuovo. Sono anch'io, ma adesso però forse è arrivato il momento di far suonare la mitica Pilvia. La presenti tu? La presento io, perché la Pilvia è qua con l'ukulele. Eccoci. Che gli ha prestato mia cugina, esatto, Roberta Giallo. Il mio fobby a casa. Col suo fobby, Pilvia si trova in grande forma. Silvia Salerno, se preferite chiamiamola col nome vero, bravissima interprete. Cosa ci canti, Pilvia? Ma io pensavo di fare questa cover che faccio anche nello spettacolo, che è una canzone che conoscete sicuramente tutti, e si chiama All About the Bass di Meghan Trainor. Adesso allora la grande Pilvia, auto accompagnandosi con l'ukulele, vi canterà questa hit. Vai Pilvia! Hey hey hey, it's pretty clear, I ain't a size two, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. Cause I got the boom boom, the older boy chains, and all the right junk, and all the time places. I see the magazine working at Photoshop, you know that she ain't real, come on and make it stop. If you got beauty, beauty, the rest of the map, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. Don't worry, baby, she's as bold like a little mobile. Tonight, yeah, your booty, booty. You know I won't be no stiff figure, silicone Barbie doll. Di-di-di-di-di, cause if it's there, watch her into, don't go out and move alone. Because you know I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass. I'm bringing booty back. Skinny bitches, hey. No, I don't skin it, don't you think you're fat? Cause I'm here to tell you every interview is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She's as bold like a little more booty to all night. You know I won't be no stiff figure, silicone Barbie doll. Ba-di-da-di-da-di, cause if it's there, watch her into, don't go out and move alone. Because you know I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass. Because you know I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, bass. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass. Because you know I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, the bass. bass, by the bass. I'm all about the bass, but the bass no trouble. I'm all about the bass, but the bass. Meravigliosissima, grande Pippa, grazie. Ci ha lasciato senza parole. E che mi fa strano più stare in, una, in un ambiente così come quando mi avete invitata sul palco di Dark Side of the Music. Mi sento, io sono abituata alla mia webcam, quindi non ti preoccupare. Essere effettivamente a contatto con della gente per me è qualcosa di sovrannaturale. Hai capito, Federa? Anche mia madre quella sera non ci credeva, mi ha detto fammi un reportage video nel quale veramente tu stai cantando davanti a della gente. Ma allora sei veramente una vlogger? Certo, questo è un mistero che non ti svelerà mai. Comunque mi sa che la Pivia è pronta, insomma, per i grandi palchi. Cioè, a questo punto, dopo il tribunale di Radio Fujiko, direi che proprio qua, altro che, qua ci aspettano gli stadi. Adesso me la metto sotto l'ala mia. Vediamo, vediamo quanto mi conviene. E te la porti a Bel Air. La porta a Bel Air mi va alla grande, no? Anche a Bel Air. Io sono una regina a Bel Air, quindi se ti porto là ti faccio fare un salto. Tanto male, non è? Meraviglioso, anche quello, perché sono vedi... Sono stata quest'estate peraltro a Bel Air. Ragazze, fra l'altro... È vero, perché la Pilvia è stata insieme a una sua amica, un'altra musicista che salutiamo a sto punto, la Spring Gross. Spring Gross è fatta tutto il giro d'America. Hanno fatto un giro pazzesco. Esatto, esatto. Vabbè ragazze, ritorna W perché Roberta W. Giallo. Sai che cosa c'è adesso in qualità di co-conduttrice? Sei prontissima? C'è una cosa importantissima, ci sono le menzioni. Eccolo qua, ti mando il jingle. L'angolo della menzione. E devo fare io? È Pasquini! OW, ciao! Ciao! Senti, come sta andando questa seconda co-conduzione occasionale con il W sostituto? Non lo so, però siete delle gran gnocche. Oh. Oh, bene, bene. E da domani vedrai anche le foto su www.coxospaziale.blogspot. Perché quando e ci sei tu mi impappero? Non vedo www.lora di vedermi. No, ma tu sei stato chiamato in realtà perché c'è una menzione che riguarda delle persone che ti conoscono. Lo sai? Quindi, no, non lo so. Quindi io leggerò l'ultima menzione e poi tu ci ridai qualcosa. Va bene, certo. Ma adesso andiamo velocissimi perché tra un po' sta finendo il coxo. Sì. Quindi, tocca prima a lui, no? No, tocca prima a te. Vabbè, ah, ok. Allora aspetta. Ops, ma che cos'è? Ecco. Allora inizio io con l'angolo della menzione. Che cosa accadrà sabato 14? Sabato 14 alle ore 20:30 vi aspetta la cena col cantattore. Teatrino di Basta, è un mio amico Gianmarco Basta, e lui al ristorante Caffè Sant'Angelo, in un'atmosfera da Caffè Chantin, qui la grammatica non so cosa no, è perché c'era il punto, non ho visto il punto. Cena con cantattore, è due punti, qualcosa. Teatrino di Basta al capito. Ristorante Caffè Sant'Angelo, quindi cena col cantatore, teatrino di Basta, ristorante Caffè Sant'Angelo, che a Bologna conoscono tutti, nella zona di San Domenico, in un'atmosfera da Caffè Chantin, le canzoni di Gianmarco Basta si uniranno a monologhi, sberleffi, un po' di poesia e qualche omaggio ai grandi maestri del passato, fra gli altri Iannacci, Califano e Ciampi, ma non solo. Per saperne di più, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Yeah. Ah, lo stacco. Vabbè, è anche ritardo. Yeah. Alla prossima parti te. Andiamo con la seconda, domenica 15. E invece cosa succede domenica 15? Alle ore 15 nella Gabbia del Leone a Kilowatt, un evento fatto di proiezioni e trekking urbano e proiezioni, realizzato da Atopio Sottili. Archivio aperto è... Come combinare le due cose? Scopritelo cliccando su www.coxospaziale.blogspot.com per vedere il link che vi rimanda all'evento da domani. Yeah. E adesso Pasqua, te la leggo io, sei pronto? Sono prontissimo. Lunedì 16 alle ore 21 la contessa Sparpigna arriva a Faenza. Starpigna. Star come stella all'americana. E non ce leggo più da lontano, guarda un po' te, guarda questi decadimenti coccici. Al Caffè 900 a Faenza, Pasquo. È la misteriosa storia di Sparagni, l'avaro di Romagna, si arricchisce di risvolti inediti con il nuovo romanzo di... è la Alberta Tedioli, quella di Grazie Alberta. Quella di Auguri Alberta. Auguri Alberta, non grazie. Le sto cannando tu. Cosa ci dici di questa cosa? Ah, che è un gran libro, è bellissimo. L'ho finito di leggere da poco perché io sono sempre un po' lento a leggere, soprattutto perché non leggo, ma è vero, secondo me, guarda, è probabilmente il suo romanzo migliore, per cui vi invito assiduamente ad andare. Perciò lunedì a Faenza. Tutti a Faenza alle 21, che c'è la presentazione con l'autrice e l'editore. Vai di stacco. Senti, però ce n'è un altro che ci siamo dimenticati. Quale? Questo sabato inaugura la Galleria L'Ariete. Però non mi ricordo più chi è l'artista, però secondo me può darsi che ne valga la pena. E da domani su www.cascospaziale.blogspot.com troverete il link. Esatto, poi già che ne hai detta una a Faenza, ne possiamo dire anche una a Reggio Emilia che inaugura Elisa Bertaglia. Sempre sabato però. Mi mandi il link che domani li rigiro, li posto? Certo. Domani okay. Invece la Silvia Caporesi a Ferrara, ti interessa? Ecco, facciamola così, dai. Raccontaci qualcosa, che siamo in chiusura di trasmissione, non ti abbiamo avuto all'inizio. Stefano, infatti ho un'ora. Beh, guarda, sono stato a Torino tutta la settimana, mi sono divertito come un deficiente. Ma perché finalmente potevo fare quello che mi piace fare, ovvero stare in uno studio a dipingere. Ma quando ci inviti, Stefano, a Torino? Non lo so, adesso quando mi trasferisco mi invito. Come, ti trasferisci? Ma no. Per adesso no. Quindi è come per dire mai, che non ci inviterà mai, sì, è un modo per un modo gentile. Pasquini non si trasferisce ancora a Torino, almeno. Esatto. Ma fra l'altro a Natale ritorni. A Natale ritorno, certo. Ma io non sto aspettando il benestare sta? Da tu sai ben chi. Sta da quanti chilometri stai da qua adesso? A Bologna. Adesso guarda, anzi te lo volevo dire. Che guarda, sai che ero a Casalecchio, adesso sono in macchina in questo momento, ed ero a Casalecchio e la radio si sentiva malissimo, fortunatamente mai telefonato e per il telefono si sente molto bene. Sono contenta, ti devo chiamare prima con la doppia linea, invece niente. Invece no, in compenso qui al Pala non so come si chiama, di Casalecchio ci deve essere un concerto perché ci sono un miliardo di persone. Ma sì! Take five. C'era davanti al Baglione tutto un gruppone di ragazzini che aspettavano lì ad aspettare che uscissero. E mi sa che ecco, effettivamente. Chi sono questi? Magari se non finisce il coxo. Ci sono macchine dovunque. Cercando su internet riusciamo a scoprirlo. Ah, ok. Allora, che giorno è oggi? Non lo so. Effettivamente una cosa che non mi piace di questo Pala, come si chiama? Pala Malaguti, come si chiama? Non mi ricordo più. Pala Malaguti, non lo so. Comunque questo Pala di Pala Casalecchio. È che non c'è scritto che cazzo di concerto c'è quando c'è un concerto. Che coxo di concerto c'è? Pasquini, mi perdi il lessico. Voglio dire, ma perché non si comprano una di quelle belle insegne americane dove possono cambiare le lettere e tutte le volte ci dicono, che ne so, se c'è J-Lo, scrivono J-Lo. Bello, come quella lì che c'è nei ring tra un... Sto cercando di scoprire chi c'è oggi. Se ce la facciamo potremmo quasi chiudere dando questa notizia. Quasi quasi sì. Forse la Pippa è più brava di me. O se no io metto su un brano e ci salutiamo così. Se non facciamo il tempo così, a trovarlo. Ma sì, salutiamoci così, c'è giusto un brano. Ci rimettiamo Fuliggine, si può? Certo, per me sì. Era bella, mi è piaciuta anche a me. Ma ascoltiamola di nuovo allora, dai. Chiudiamo anche la trasmissione. Non si può perché è anteprima. È in anteprima, per la prima volta è stato mandato in radio a Coxo Spaziale. Sì. Renditi conto, Pasquini, cosa succede qui? Fuliggine. Wow. Un pezzo scritto anche questo in coxo scrittura da Roberta Gialla e Paolo Piermattei. Ok, e allora facciamo un bel saluto a giro. Pasquini saluta me. Ok. Io saluto te. Io saluto Roberta da Biogiallo. Io saluto Silvia. E io saluto Fede. Sì! Ma era una domanda. E noi ci riascoltiamo Fuliggine. Ascoltiamoci Fuliggine, è stato bello. Ciao. Ci risentiamo alla 118esima settimana Silvia, prossima. Grazie per essere stata qui. Grazie a voi. È stato meraviglioso. Torna quando vuoi, di sicuro. E ci risentiremo anche prima. Ogni sera. No, ogni giovedì. Posso venire? Mi piace questa stanza di Radio Città Fuggico. Di venire tutti. No, niente. A questo punto non ce la facciamo più a mandare il brano. Vabbè. Ma come no? Metti il brano lo stesso. Dai, ma no, perché sforiamo con le pubblicità. Invece devono partire. C'è uno Stefano adesso. Migliore di me di nuovo. E allora quindi dobbiamo dire qualche stupidaggine per chiudere? Se non parte più il brano? Salutiamoci. Allora ci salutiamo. Di nuovo. Facciamo quel giochino che diceva Fedra. Però sono attimi di radio veramente intensi. Ma lo saranno ancora di più adesso dopo questo jingle di apertura degli spot. Infatti. Ma comunque ringraziamo allora Stefano di nuovo che da Bologna e non da Torino parla con noi. Ringraziamo anche Marco Sbarbati. Ringraziamo Marco Sbarbati che era a Milano. E Katia di Cibo che invece era in Trentino Alto Adige. Sì. Poi ringraziamo Silvia Salerno a Capilvia che era qui col suo ukulele Fobby e poi ringraziamo Fedra che ho di fronte che ha e condotto. Poi ringraziamo Roberta Giallo che è sempre che è una W, si è wizzata.